vogliamo produrre una riflessione con un pensiero un po' strutturato e un po' lungo. E noi come Rete per l'Emergenza Climatica e Ambientale ci occupiamo in primo luogo delle questioni di carattere ambientale, della situazione molto pesante, molto difficile che c'è anche in Regione Emilia-Romagna. E però proviamo a costruire una riflessione per cui rifuggiamo da letture un po' semplicistiche, tipo il modello emiliano va bene, ha buoni risultati economici e però c'è un impatto ambientale negativo. In realtà quello che noi vogliamo mettere al centro della nostra riflessione è che proprio un intero modello sociale e produttivo, anche quello emiliano-romagnolo, che oramai è giunto a fine corsa, è un modello che non funziona più neanche dal punto di vista dei suoi risultati economico-sociali. Basta pensare al fatto che anche in Emilia-Romagna si diffonde il lavoro povero e precario, che aumenta la povertà, che appunto si va in una direzione che è una direzione che ragiona soprattutto sullo sviluppo quantitativo e non invece sui risultati da un punto di vista della qualità e del benessere delle persone, a partire dalle questioni di carattere ambientale. Insomma, vogliamo aprire una riflessione per dire, a differenza di quanto fa il presidente di questa regione, che non è che siamo in presenza appunto di un modello assolutamente positivo che anzi va esportato, ma che anche il modello dell'Emilia Romagna è un modello che è in crisi, che va assolutamente ripensato, che anche qua serve una svolta dal punto di vista dell'insieme delle matrici che producono la situazione economico-sociale e ambientale. Quindi insomma non è un'alternativa all'Emilia Romagna? No, anzi noi diciamo esplicitamente anche il modello emiliano è iscritto dentro quello che è la pratica e il pensiero neoliberista. Certo, anche in ragione dell'eredità del passato questa regione presenta ancora risultati migliori rispetto ad altre parti d'Italia. Certo, c'è un maggiore elemento di inclusività e di solidarietà sociale, però l'idea di fondo, appunto, sviluppo quantitativo, scarsa importanza per quanto riguarda le tematiche di carattere ambientale, logica di sviluppo basata sulle grandi opere, appunto in realtà sta dentro quel modello, sta dentro il modello neoliberista, è una variante, se vogliamo, più temperata, è una variante in qualche modo che appunto ha maggiori tratti di inclusione sociale, ma sta dentro quel paradigma, sta dentro quell'orizzonte, e invece è proprio quel paradigma e quell'orizzonte che oramai va messo in discussione, e anzi è oggettivamente in discussione nel mondo, in Italia e anche in Emilia Romagna, e definitivamente alle nostre spalle, secondo noi, la geografia del modello emiliano. Il convegno è suddiviso in 3 sessioni, ci puoi fare un accenno ad alcuni relatori? La prima sessione appunto ragiona su questi temi di fondo che accennavo adesso, e quindi ragiona appunto proprio sugli elementi di sviluppo quantitativo, di un'opzione produttivista e della finanziarizzazione dell'economia anche in Emilia Romagna. Per esempio in questa sessione parleranno Alfonso Gianni, che è il direttore della rivista Alternative per il Socialismo, Marco Bersani di Attacca Italia, Wuming 2, Massimo Serafini, ambientalista. La seconda sessione invece si concentra maggiormente sui temi relativi al clima, all'ambiente naturale e all'ambiente urbano, e anche qua appunto abbiamo presente molti ospiti importanti, da Federico Grazzini, climatologo, che ci parlerà del cambiamento climatico in Emilia-Romagna, a Piero Cavalcoli e Gioacchino Piras, che parleranno del consumo di suolo, e molti altri ancora. Infine, la terza sessione, domenica mattina, si concentra, diciamo, sui beni comuni, e quindi ragioneremo sui punti relativi alla mobilità, all'energia, all'acqua, ai rifiuti, all'economia contadina, anche qua con una serie di relatori decisamente qualificati, anche per iniziare a prospettare appunto un'idea alternativa di modello sociale produttivo. Uno dei punti forti di questa idea alternativa si basa ovviamente sui beni comuni, e cioè si basa sul fatto che, a differenza appunto del neoliberismo, ci sia invece un intervento pubblico più forte, e che questo intervento pubblico venga supportato supportato poi da un rilancio dei meccanismi di partecipazione e di democrazia partecipativa che riguardano i cittadini. Ci aspettiamo che questa nostra riflessione possa proseguire anche andando avanti, perché appunto c'è bisogno anche in questa regione di prospettare un'alternativa al modello sociale produttivo, intanto nel profitto per invitare tutti a discutere con noi sabato e domenica.